Oggi a Bologna c'è stato l'interrogatorio dei ragazzi che avevano gli obblighi di dimora e i divieti di dimora qui a Bologna. Ci sono altre misure che sono state date in seguito alle indagini aperte settimana scorsa per associazione a delinquere qui a Bologna. I 5 compagni in carcere per il momento restano lì e anche le misure restrittive, gli obblighi e i divieti di dimora per il momento rimangono invariati perché i compagni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Quindi si procederà poi con il riesame fra un paio di settimane. Per il momento a Bologna continueremo a fare una serie di iniziative in solidarietà con gli arrestati, ma anche per portare avanti tutte le lotte che fino a questo momento a Bologna abbiamo condotto anche insieme a chi adesso si trova in carcere. E un primo appuntamento grosso sarà questo sabato 16 aprile a Bologna, a partire dalle ore 15 faremo un corteo con concentramento appunto alle 15 in piazza 20 settembre di fronte alla stazione, per attraversare tutto il centro cittadino e arrivare al quartiere San Donato, che è il corteo a cui è stata appioppata la definizione di quartiere di terroristi, perché la maggior parte poi di noi abitano lì. E sarà un corteo contro la guerra, non soltanto contro la guerra esterna, ma anche contro la guerra interna, quindi lo slogan è un po' contro la guerra dei padroni che bombardano e lucrano oltre confine, e contro la repressione che colpisce, che sta colpendo sempre più indiscriminatamente chi osa alzare la testa qui in Italia. Quindi invitiamo tutti quanti, sia in solidarietà con i compagni arrestati che contro la guerra più in generale, che non vuole essere assolutamente un invito alla pacificazione, bensì a tenere duro in ogni luogo in cui vi sia una scintilla di rivolta, anche qua in Italia. Quindi.